così, fa così. Guarda, guarda, guarda quanta monnezza. Da che ci stai tu qui c'è la schifezza. E se nella giunta c'hai dei ladroni, lo sai anche tu, anche tu, anche tu. Mazzo, mazzo, mazzo, mi fanno il mazzo. Perché come sindaco non so nulla. Io facevo proprio un altro lavoro. E mo sto qui, mo sto qui, mo sto qui. Bello, bello, bello, ma se vai al seggio, scrivi l'altro nome che io festeggio. La sconfitta duole, ma è molto peggio. Questa città, la città, la città. Sarai regina e vincerai. Tutte le cose che vorrai diventeranno realtà. Irene ha 10 anni quando sua madre le regala un quadretto con questo motto e adesso Sarai regina e vincerai è diventato il titolo del libro pubblicato da PM in cui Irene Vella racconta la sua storia eccezionale. Irene ha sposato l'uomo che sognava. Hanno una bambina piccola, un cane e 34 metri quadrati di casa pieni d'amore. Insomma, Irene è felice. Poi un giorno tutto cambia, perché a suo marito Luigi viene diagnosticata un'insufficienza renale cronica. La prospettiva è la dialisi a vita, oppure un trapianto. E Irene non ha dubbi, decide di donare un rene a Luigi. Irene, tu hai detto che ci vuole più amore a ricevere un organo che a donarlo. Perché? Secondo me è assolutamente sì, perché comunque già, no, una volta ti sei sposata e appunto come recita la promessa in salute e malattia, accettare un organo significa sì, decido di passare non solo la vita con te, ma di portarti anche dentro di me. E io la vedo una cosa di una generosità incredibile. Sicuramente anche donare è un gesto di generosità. E allo stesso modo, secondo me, però, non è la stessa cosa di ricevere. Tu non hai mai avuto paura che la tua generosità potesse diventare un peso troppo grosso da sopportare per tuo marito? No, appunto, no, perché lui ci ha messo 2 anni, secondo me, ad accettarlo. Proprio perché diventa una forma, cioè nel momento esatto in cui lo fai dici ok, sì, sono convinto, lo facciamo, ed è un gesto assolutamente spontaneo, sia diciamo quello di donare e sia altrettanto deve essere quello di ricevere. Però per dirti, lui non ha mai fatto pressioni. Io conosco purtroppo coppie in cui appena lui si è ammalato, scoperta la malattia, ha quasi costretto la moglie a donargli un rene, cioè ha dato per scontato anzi che fosse lei a donargli il rene. Ecco, ma sulla donazione di organi in Italia le più generose sono appunto le donne, con il 69% sì, di donazioni sì, rispetto al 31% degli uomini, e in più nel 71% dei casi sono le mogli a regalare un rene ai mariti, mentre i maschi si fermano al 24%. Ma secondo te perché? Come lo spieghi? Perché probabilmente la donna è anche già abituata a donare, a dare la vita, no? A dare la vita ai figli, quindi in qualche modo è un po' anche già abituata a fare questo piccolo miracolo. Forse l'uomo, non tutti gli uomini, però forse l'uomo è un po' meno altruista, ecco, mettiamola così, un po' più egoista. Senti Irene, tu da giornalista ti sei occupata della storia di una donna piemontese che aveva donato un rene al marito e poi era stata lasciata. Hai mai pensato che è una mia amica. Ah, ecco. Ma hai mai pensato che potrebbe capitare anche a te? Quando ho raccontato quella storia, avendola vissuta in prima persona, perché io con Cristiana sono diventata amica proprio perché Cristiana mi ha cercato prima di fare la donazione, perché cercavo una storia che fosse stata una storia simile, diciamo, per capire come sarebbe stato, diciamo, il dopo, ecco, aveva bisogno di confrontarsi. Quando è successo, sinceramente, sono rimasta molto molto male, ho sofferto tantissimo per lei, perché mi sono immedesimata in lei e ho provato un dolore fortissimo, perché poi lei è stata lasciata quando suo figlio, il secondo figlio, aveva 6 giorni, quindi insomma c'era veramente un carico da 90 sopra. Io penso che, a parte che non ho mai messo in conto il fatto che lui si potesse lasciare, però se dovesse succedere sarei sicuramente male, ma sono cose che possono capitare. questa è la fase, diciamo, quella buona, quella cattiva, glielo rilevo a morte, ecco. Schiaffeggio malamente e se c'è un'altra piccio anche lei, questa è quella non politicamente corretta. Senti Irene, tu sei stata anche la prima donna italiana a partorire dopo aver subito un espianto, ma dove hai trovato il coraggio? Ma guarda, io in realtà quella era la condizione sine qua non, perché io volevo tanto un secondo figlio. Chiesto prima di fare la donazione, appunto, se poi ci potessero essere delle controindicazioni. Anzi, mi hanno detto assolutamente no. Loro mi hanno detto di aspettare un pochino di più, ma siccome io sono una testa di leccio, dopo 3 mesi dal trapianto io aspettavo appunto quello che poi è diventato, e che è mio figlio Gabriele, che è il primo bambino nato in Italia da madre donatrice. Sono passati 20 anni da quando hai conosciuto Luigi. Io ti leggo quello che scrivi per raccontare quell'incontro. Quando ho visto Luigi, sono rimasta incantata a guardarlo per almeno 5 minuti. Aveva una camicia bianca che lasciava scoperto il lungo collo e dei classici jeans che mettevano in mostra le sue gambe belle e muscolose. Non c'è stato un lembo del suo corpo che non abbia squadrato in quel lasso di tempo o che non abbia immaginato senza vestiti addosso, soprattutto. E tu scrivi ancora: ho avuto un solo pensiero. Chiunque fosse, doveva essere mio. Peggio di qualunque telenovela brasiliana. Ci mancava solo che dicessi o mio o di nessun'altra per dare fondo al mio repertorio da attrice consumata. Ma a quasi 20 anni di distanza, oggi Irene com'è? È ancora così. Irene Vella, sarai regina e vincerai PM. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Buongiorno Ale Cravetto. Ciao Ale, come va? Io bene. Allora, di che parliamo oggi? Allora, oggi non parliamo di telefonini come sempre, ma parliamo di telefonate, perché in questi prossimi giorni potrebbero arrivare telefonate come questa. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Chi è? Chi è? Maria Elena, Maria Elena. Ma con chi può parlare lei? Ma Maria Elena con chi vuole parlare lei? L'unica Maria Elena. Sia Maria è morta. Da mo. So 5 anni che è morta. De che? Non lo so. So che la mattina si è alzata, è andata al bagno e poi è morta. Ma non so. Chi è? Maria Elena, Maria Elena. Ma lei quindi? Che gli doveva dire? Sempre lei. Ma me lo dica a me, io sono il nipote! Sono il nipote, me lo dica a me! Ma non glielo può dire a lei! Come perché? Perché è morta! Senti, ma scusami, che cosa deve dire Maria Elena alla zia e al nipote anche? Allora, l'ultima trovata per arrivare ben preparati al ballottaggio, soprattutto qui a Roma, l'ha avuto lei, Maria Elena Boschi, il ministro. È lei. È lei. Quante Maria Elena conosci tu? Io scusa. Nessuna. Ecco, allora, neanche non è un nome così comune, quindi comunque è lei. Allora, ha dichiarato che chiamerà tutti i romani e li inviterà a votare per il candidato PD. Tutti i romani? Così ha detto lei, tutti. Anche me? Può darsi. Quindi mi se telefona. Ti squillerà il telefono nei prossimi giorni, mi raccomando. Ma io la invito qui, intanto come prima cosa la invito, dico Maria Elena, vieni qui da noi. E lei ti dirà di no, ma comunque ti telefonerà, tu risponderai, vedrai cosa ti avrà da dire lei e dopodiché farai un po' la tua scelta. Io farò la mia scelta, va bene, ok, però lei il numero dove lo trova? Ecco, questo è un problema, perché abbiamo visto che ci potrebbero essere delle situazioni in cui telefoni, la nonna non c'è più, la zia è trapassata. Allora c'è una app, Maria Elena, segnatela perché potrebbe essere molto utile, ed è la app delle pagine bianche, che sono tutti i contatti delle persone residenti a Roma aggiornate, per cui perlomeno sono in vita. Sì. Ho capito, e poi però lei comunque deve scegliere chi chiamare. Lei deve scegliere chi chiamare. Deve fare una selezione, si deve anche un po' sbrigare, perché sai com'è chiamare, quanti siamo? Tanti, quasi 4 milioni. Sì, ma secondo me due giorni. Adesso più che stare lì a scegliere chi chiamare, soprattutto a capire che cosa dire, secondo me lei sta facendo un'altra cosa, sta ascoltando la Nannini. Ti telefono no, vai volare in cantina. Mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Allora Pietrangelo, dove andiamo oggi? Ecco, vediamo, mi aiuto con la musica. Ti porto nella Litorania che da Catania porta a Messina. Ti porto nell'isola dei giganti con un occhio solo. Dai fedeli servitori di Efesto, dalla cui forgia Zeus prende le folgori per signoreggiare sul cosmo e sul destino. Con la musica adatta, che è quella di Handel, Aci e Galatea, è un perfetto storytelling dove incontriamo oggi Emilio Casalini. Emilio, buongiorno. Buongiorno a voi. Emilio Casalini, documentarista, giornalista della trasmissione Report, viaggiatore e autore di inchieste in Italia e nel mondo. Ha scritto Rifondata sulla bellezza, viaggi, racconti e visioni alla ricerca dell'identità celata. Dobbiamo togliere la polvere dalle mensole della nostra storia. Un turista preferisce Londra a Roma e si deve capire perché. Perché forse l'Italia non conosce se stessa e perché dunque col turismo noi italiani non sfruttiamo le grandi possibilità che abbiamo col nostro territorio. È così, Emilio? È così ed è incredibile la differenza tra potenzialità e realizzazione. Non solo è il settore più incredibile di crescita, il settore economico in crescita nel mondo, ma è anche quello più compatibile con l'ambiente e soprattutto è più compatibile con l'identità. Il turismo di oggi è un turismo esperienziale, per cui siamo in una congiuntura straordinaria che permette non solo di diventare, di guadagnare, di lavorare, che è la cosa insomma che tutti vorremmo fare, ma di farlo raccontando la nostra identità, trasformare un progetto di sviluppo economico in un progetto identitario. È di più del puro turismo e del puro guadagno economico. Museando, questo è il tuo titolo alla condizione dei musei in Italia, dove il in confronto con altre realtà in Europa è impari. Ma allora ti chiedo, la riforma di Franceschini ha portato a dei risultati? Sì, è realistico che nei musei sono cambiate molto le cose, sia dal punto di vista dei numeri, perché oggettivamente la gente fanno dei numeri di crescita veramente importanti. Ha fatto anche delle nomine, discusse secondo me ottime invece, di direttori, manager, facendoli venire anche dal resto del mondo. Non capisco, parentesi, perché quando i nostri vanno all'estero, al Louvre siamo fighissimi, quando arrivano quelli dall'estero da noi siamo colonizzati, cioè qualcosa che non funziona alla nostra testa. Quello che non va ancora in maniera pesante nei nostri musei è la narrazione all'interno. Senti, l'Italia vince il World's 50 Best Restaurants con Bottura e la sua osteria francescana. E sì, tu che cosa vuoi dire quando parli di cibandoci di noi? Allora, il cibo e lo shopping di alto livello sono i motivi per cui principalmente arrivano i turisti dall'estero e vengono da noi, ci visitano. Noi abbiamo ancora dobbiamo uscire da questa testa per cui il turista, da questa immagine, è un portafoglio ambulante che dobbiamo fottere. No, sì, è una persona da rispettare e da accogliere e offrirgli le cose più belle che abbiamo, la biodiversità delle nostre terre, quella che porta a livello negativo al campanilismo per cui è lotta contro uno contro gli altri, ha invece di positivo questa unicità ogni posto che ti muovi. Ecco, Bottura ha vinto il miglior ristorante del mondo, ma la qualità che ti offre anche una trattoria in molte regioni italiane, dalla Sicilia al Friuli, è straordinaria. Rifondata sulla bellezza, Emilio Casalini, Spino Editore. Un'ultima cosa, Emilio, per favore, mi aiuti a ricordare ai nostri ascoltatori la metratura, i chilometri e le presenze alberghiere nel confronto tra le Baleari, le Canarie e la Sicilia. Canarie, Baleari e Sicilia hanno più o meno lo stesso numero di coste, siamo intorno ai 1500 chilometri di costa. Ovviamente Canarie e Baleari non hanno nulla di paragonabile a quello che può offrire la Sicilia in tutte le stagioni, tutti i mesi dell'anno. Per pernottamenti di turisti stranieri, che sono quelli che poi portano davvero i soldini, Canarie 83 milioni di pernottamenti all'anno, Baleari 57 milioni di pernottamenti e Sicilia 7 milioni di pernottamenti. Mezzica, buttanissima Sicilia sempre. E allora, Rifondata sulla bellezza di Emilio Casalini, Spino Editore, solo su Amazon. I David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. Ci stiamo avvicinando all'estate e io sono molto preoccupata, perché quando viene l'estate al cinema fanno dei film orribili di due palle, di attori incapaci, di registi probi, hai capito? Ho capito. Fanno quei film che se li mettono al cinema d'inverno gli tiri i topi morti. Bene, Donatella, e allora? Non capisci che questi film sono soprattutto di paura? Tipo di bambini che sono buoni e poi si indiavolano? Tipo di bambole che sono tutte carucce e di notte si svegliano e ti strappano le braccia? Hai capito? E io non ho nessuna intenzione di andarli a vedere. Bene, tu, bene, Donatella. Comunque il film che vi dico oggi si chiama Tutti vogliono qualcosa, e fin qui non è che hanno scoperto l'acqua tiepida, perché è chiaro che tutti hanno dei desideri, no? Due regole: la prima, niente alcol in questa casa; la seconda, niente ragazze nelle camere da letto. Hai capito? Questo tipo va al colle, cioè, dove va? Siccome all'università. Ah, bene. E siccome è giovane, tu non sai le lingue, è chiaro. Ha ragione. Giustamente, senza godersi la vita, e quindi alla fine che può volere? Dai, dillo tu. Non lo so, Donatella, che può volere? La birra, la musica, il casino, e poi quella cosa che tira più del carro di poi, dici tu? No. Perché non è il quartiere? No, Donatella, abbiamo capito. E quindi? Quindi questo film è ambientizzato alla fine degli anni 70. Ambientato. Perché, sì, vabbè. Però non ti pensare che il film è solo allegro, perché alla fine c'è il messaggio che la giovinezza passa in fretta, tipo la tua. Vabbè, ma pure la sua, scusi. No, e bisogna fare i conti con le responsabilità, quindi c'è malinconia, hai capito? Vuole anche parlarci del cast, lei? No, perché questi attori veramente io non li ho proprio mai visti in vita mia, quindi preferirei passare. A me sono non sbagliata. Sta bene oggi, Donatella. Subito alla domanda della pena. Bene, la faccio la domanda sulla pena. Allora, vale la pena vedere Tutti vogliono qualcosa di Richard Linklater con Austin Amelio, Temple Baker e William Britten? Capito, adesso dimmi se questi tu li avevi già sentiti. È come se io ti dico che ci sta John Johnson e Wim Wenders. Tu li conosci, no? Guardi, John Johnson no, un po'. Vabbè, ma quindi vale la pena vedere questo film? Sì, però basta che non ti fidi del trailer, che fa il trailer, Donatella! Invece, se ci vai, scopri che è un film di giovinezza, di scuola, di amore, di sesso, di alcolici, di casino, di ragazzi ubriachi, di malinconia, di ridere. Di liste, bene, Donatella, grazie! Ma tu l'hai visto il film del pupazzetto peluche che cava gli occhi? Franco Schipani? Alessandra Fiori? Buongiorno! Ciao! E questo è Vasco Rossi, dopo tanto tuonar piove con Un ragazzo di strada, un famosissimo brano dei Corvi degli anni 60, riarrangiato da lui e presentato qualche anno fa al Festival del Primo Maggio. Carissima Alessandra. Carissimo Franco. Ti piace Vasco? Sì, mi piace molto Vasco. Tanto? Sì, non sempre. Comunque, se vi piace tanto, l'appuntamento è per domani sera allo Stadio Comunale Teghil, in Viale Europa, a Lignano, Sabbia d'Oro. Tutta un'altra musica. Questa ti piace, Alessandra? Guarda, questa è una di quelle cose che si dice ti piace, ma certo che mi piace Pat Metheny o Pat Metheny, perché non si può mai dire che non ti piace Pat Metheny. Pat Metheny è un chitarrista, un musicista leggendario, e poi trova sempre delle collaborazioni incredibili. In questo caso è già arrivato, sta facendo dei concerti, però dopo vi do la data per questo weekend. Si fa accompagnare da Antonio Sanchez e altri musicisti veramente di altissimo livello internazionale. L'appuntamento con Pat Metheny e questo gruppo e per dopodomani, il 19, al Gru Village presso Aria Eventi Esterna Southfield Le Gru a Grugliasco alle ore 21. Adesso ci diamo una bella lavatina, che anche sentirsi puliti ti tira sul morale, capito? Ciao, su bello. Fai un piacere. È gelata. Beh, questi l'hai conosciuti? Ma che gelata, Franco. Vianello e Mondaini, che coppia veramente spettacolare. Una coppia... Ma lo sai che credo tu sia l'unico che li ha chiamati per cognome, Vianello e Mondaini? Sì, come... Sandra e Raimondo. Ma sai perché? Perché era come... li considero un po' amici di scuola, no? Quelli di scuola si chiamavano sempre per cognome. Te lo ricordi Schipani? Cioè, Leoni, Leone, quelle cose. Vianello Mondaini, comunque una coppia inossidabile sia nella vita privata che sulla scena. Le vicende di questo flemmatico gentleman inglese e di una vera e propria forza della natura hanno appassionato gli italiani di tre generazioni che li hanno sempre seguiti con affetto e simpatia sul piccolo e grande schermo e ovviamente in teatro. È una storia, guarda, veramente appassionante. Una storia che ci racconta Giovanni Minoli, quindi restate in ascolto.